Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eros Puglielli, regista del film Nevermind, al cinema da giovedì 1 agosto 2019. Eros, ben trovato. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, molto bene. Visto che è da qualche giorno, ti chiedo subito com'è andata la prima settimana. Ma diciamo i primi giorni, mi dicono i produttori di essere contenti, nel senso che vedono una crescita. Chiaramente è tutto sperimentale, perché tutto, diciamo, un'uscita il primo agosto è molto sperimentale. Il film è molto sperimentale, quindi insomma il dato è comunque positivo, nel senso che è una piccola distribuzione, ma diciamo rispetto alle aspettative pare che stia comunque ingranando. Sì. Per chi ci ascolta, come lo descriveresti in breve? Nevermind è un film, diciamo, una specie di commedia surreale, se si può dire surreale, perché in realtà poi parla di cose che apparentemente sembrano molto strane, molto, diciamo, inconsuete, ma sono molto quotidiane, no? Sono quelle stranezze che si nascondono un po' nelle pieghe di ciò che sembra normale. Quindi sono cinque storie divertenti, ma anche inquietanti, intrecciate tra loro, e che ogni episodio racconta un po' la condizione e il disagio dello stare al mondo, no? Attraverso una diversa gradazione, no? Diversa angolazione. Sono cinque storie, diciamo, e sono storie che non sono prevedibili nel loro svolgimento, e quindi è molto difficile fare dei riassuntini, e in realtà poi toglierei sorpresa e toglierei, certo, suspense. Però è così, sono cinque storie intrecciate in cui i personaggi si ritrovano a avere a che fare con eventi apparentemente straordinari, ma che in realtà poi sono molto molto ordinari. L'assurdità del quotidiano, insomma. Esattamente, esattamente. Come era nato tutto? Tempo fa, quando mi erano un po' venuto in mente un po' di storia, anche un po' scherzando, no? Chiacchierando con a volte anche con gli stessi amici attori che hanno partecipato a questa operazione, e anche un po' facendo molti lavori televisivi in cui ci si trova spesso in situazioni un po' oppressive, no? Dal punto di vista drammaturgico, no? Perché magari la televisione deve essere un pochino più rassicurante, e allora per contrasto spesso mi scattavano appunto delle storie, cioè che mi venivano delle idee proprio su quei set che poi sono entrate in questo film. Quindi nasce tutto in realtà dalla normalità, cioè da una specie di eccesso di normalità, no? Quella l'ispirazione che poi fa scoppiare questa altra visione di ciò che è normale, no? Che è questo film. E l'ispirazione per queste singole storie? Ma sono tutte ispirazioni venute in momenti diversi, però diciamo sapendo che in qualche modo stavo collezionando storie per poi raccoglierle, no? E per farne un unicum. Quindi sì, le ispirazioni sono le più disparate. C'è una storia, ecco, che accomuna un po' tutto, insomma, spesso sono strane intuizioni, ecco, che hanno portato alla scintilla iniziale. Uno degli elementi che si notano subito nel film è la presenza di un cast molto interessante. Allora, sì, abbiamo molti attori che si trovano in questo film, sono attori con cui avevo già lavorato. Sì, sì. E che avevo quindi avuto modo di conoscere anche negli aspetti meno noti. Ho lavorato con Giulia Michelini, con Paolo Rossanelli, con Sartoretti. Conoscersi su dei set, stare a lungo tempo assieme, ti permette di conoscere anche il senso dell'umorismo delle persone, l'intelligenza, eccetera. E questa è stata una condizione essenziale per poter coinvolgere questi attori in questa operazione, cioè avere proprio delle sensibilità che potessero essere accordate con la visione del film. Senti, la sperimentalità di questa uscita, di questa produzione, raccontaci un po'. Il film che è stato girato in pochissimo tempo, un film a basso budget, anche se spero non sembri, credo non sembri a basso budget, è stato girato in 14 giorni, quindi ti puoi immaginare, sì. No, 3.000 location, insomma è un film molto complesso anche tecnicamente. E comunque diciamo il basso budget ha in qualche maniera consentito una certa libertà che il cinema mainstream non ti consente. La televisione meno che mai, il cinema mainstream comunque anche quello è abbastanza ingessato in certe regole, in certi schemi, diciamo, editoriali, no? Invece questa forma molto molto snella di produzione ci ha concesso di poter sperimentare un qualcosa, cioè spesso anche proprio i singoli episodi, quando approcciavamo al singolo episodio, era un po' un'avventura anche per noi che lo facevamo, perché ci chiedevamo, ma funzionerà una roba del genere? Perché non l'abbiamo mai vista, no? Una cosa così. Quindi funzionerà un film basato su questa situazione? Ci chiedevamo questo, e poi scrivendo, poi realizzando il film, ci rendevamo conto che effettivamente funzionava, cioè che comunque era un qualcosa di nuovo che anche per noi che lo facevamo. Hai avuto anche dei riferimenti estetici e comici a cui ispirarti? Guarda, diciamo, l'aspetto comico, se si può parlare di comico, viene sicuramente dalla un po' buñueliano, diciamo. Uh-huh, sì. È una dimensione più non proprio comica, no? Ma di ironia, di un'ironia scomoda, ecco, sì. No? Quindi un po' Monty Python, un po' cioè John Landis, ma fondamentalmente credo che abbia una sua cifra questo film, anche se questo, diciamo, è un po' il background, cioè un aspetto che per me è stato importante è stato il fantasma della libertà di Buñuel, sì. Specialmente per quanto riguarda la struttura narrativa, il modo proprio di collegare le storie, il modo di prenderle un unico film, e molto, diciamo, di questa ispirazione nel come, anche se poi è stata chiaramente rielaborata, viene proprio dal fantasma della libertà di Buñuel, che è un film, diciamo, basso, molto surreale, ma anche incredibilmente divertente, cioè il film è pieno di situazioni incredibili, di grande intelligenza. E allora ricordiamo il film Nevermind al cinema da giovedì 1 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Eros Puglielli. Un abbraccio. Grazie, in bocca al lupo, a risentirci presto, Eros. Grazie, a presto, a prestissimo. Ciao. Ciao a tutti. Con Lily Anstan, direttrice della 72esima edizione del Locarno Film Festival dal 7 al 17 agosto 2019. Ben trovata. Grazie. Raccontiamo un po' come si caratterizzerà questa edizione. Questa edizione si caratterizzerà come nella lunga, lunghissima tradizione del Festival di Locarno, che giunge alla 72esima edizione, da una certa audacia, da i rischi che hanno preso i registi e le registe che abbiamo selezionati e che il festival accompagna e difende da sempre. Quante saranno le opere presentate quest'anno? Se facciamo il conto di tutti i film, sono 246, di cui 125 che rappresentano, diciamo, la selezione 2019 fatta con i film ricevuti e visionati dell'anno, collocati nelle sei sezioni della selezione dell'anno, che sono il concorso internazionale, il concorso cinesti del presente, che è dedicato ad opere prime, seconde e terze, il concorso di cinema d'essai o sperimentale Moving Ahead, il concorso dei partiti di domani, che è per i film corti, e il fuori concorso. Quali sono le cinematografie più vivaci, più presenti in questa edizione numero 72? Quest'anno c'è, non so perché, ma comunque una presenza europea forte. Per la Francia è stato un anno fortissimo, basta vedere il numero di film francesi inedito a Cannes quest'anno, e noi abbiamo due film e mezza in concorso internazionale, perché due film sono francesi francesi e uno è il nuovo film di Ravin Merzainach,

tutto l'immaginario che porta con sé, e abbiamo creato questo slot delle Crazy Midnight dove si potranno vedere delle opere abbastanza estreme. C'è la realtà virtuale che prima non era presente al festival e che noi introduciamo soprattutto non come una sezione in sé, perché non si tratta di un progetto tecnofilo dove si farebbe per me sarebbe come fare un corso 16 mm, cioè non, per me non ha senso basarsi su il formato per considerare un'opera, sì. Bensì si tratta di essere solo in grado di considerare cosa fanno alcuni registi, alcuni artisti, sono pochissimi, però secondo me valeva comunque la pena poter dare attenzione a questo nuovo medium che stravolge totalmente due questioni maggiori del cinema, dell'arte cinematografica, che sono il punto di vista e lo spazio, per cui mi interessava poter eventualmente accogliere opere interessanti in questo merito. E poi sì, beh, direi che queste sono alcune delle novità più importanti. Bene. E allora ricordiamo la 72esima edizione del Locarno Film Festival dal 7 al 17 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Lily Anstan. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tantissimo, grazie. Con Simonetta Grechi, che cura la 18esima edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente Rispescia, provincia di Grosseto, dal 14 al 18 agosto 2019. Simonetta, ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Innanzitutto parliamo nel complesso del Clorofilla, che va avanti da maggio a novembre in 11 altri spazi in giro per l'Italia. Ecco, ce ne parli un po'? Sì, dunque abbiamo iniziato a maggio a Bologna all'interno di una rassegna che abbiamo curato e dove abbiamo proiettato due dei documentari in concorso, Amaranto e I Villani di Daniele De Michele. Poi abbiamo avuto delle altre tappe anche a giugno e luglio, in particolare alla Cava di Roselle vicino Grosseto, dove abbiamo proiettato alcuni film e documentari. Poi siamo spostati un po' a nord, a Recco, all'interno del Posidonia Festival in provincia di Genova, dove abbiamo proiettato il documentario che ha vinto la menzione speciale di Legambiente a Cinema Ambiente, De Clima e Limbo, scritto da Elena Brunello e diretto da Francesco Ferri e Paolo Caselli. Le prossime proiezioni saranno concentrate tra la Cava di Roselle e Festambiente, dove diciamo si svolge un po' il nucleo centrale del festival, quindi anche se la festa in questa edizione è ridotta nei giorni, abbiamo concentrato nei 5 giorni alcuni dei documentari del concorso, mentre altri ancora li proietteremo più avanti al Cinema Stella di Grosseto e sempre alla Cava di Roselle o anche al Museo di Storia Naturale. Chiuderemo a novembre, come di consueto, allo Spazio Alfieri di Firenze con le premiazioni e alcune proiezioni. Oltre 50 proiezioni tra documentari, film e cortometraggi a tematica sociale e ambientale, opere prime e seconde. Quali sono stati, Simonetta, i criteri di selezione? Dunque, uno dei criteri di selezione per quanto riguarda i film è che appunto siano film mai proiettati a Grosseto e di autori italiani. Infatti abbiamo proiettato nel mese tra giugno e luglio il film di Rolando Ravello, La prima pietra, che al Grosseto non era uscito, poi il film di Gipi, Il ragazzo più felice del mondo, prossimamente proietteremo Bangla di Fahim Boyan e Fiore gemello di Laura Buchetti. Per quanto riguarda i documentari, noi abbiamo un concorso per cui attingiamo al materiale che ci viene inviato tra, diciamo, febbraio e gennaio, insomma, gennaio e maggio. In questo periodo, diciamo, il bando è aperto, quindi in questo periodo abbiamo visionato diversi lavori che ci sono stati inviati e da quello che ci è appunto pervenuto abbiamo selezionato i documentari e i corti del concorso che, diciamo, la maggior parte si concentrano dal 14 al 18 all'interno di Festa Ambiente e poi nei giorni successivi tra il Museo di Storia Naturale e Cava di Roselle. Prima anche la presenza di autori e autrici? Sì, più o meno tutti i giorni ci saranno gli autori dei documentari e in alcuni casi anche dei corti, per cui sì, avremo anche la possibilità di ascoltare dalla loro voce come è nato il lavoro che, diciamo, vengono a presentare all'interno di Clorofilla. Mm-hmm. E ovviamente tu li presenterai. Quali sono gli orari delle proiezioni? In che blocchi sono organizzate? Allora, le proiezioni iniziano alle ore 21, tra le 21 e le 22:30 a Festa Ambiente, perché Festa Ambiente, essendo la festa nazionale di Legambiente, ha al suo interno tante attività. Dopo il cinema c'è il concerto che chiude, diciamo, un po' la serata, in realtà però l'apertura del festival è alle 17:30 e dalle 17:30 alle 21 ci sono appunto tante iniziative, dall'animazione per i bambini al teatro ragazzi a mostre, degustazioni, stand espositivi, per cui insomma i visitatori possono avere, diciamo, un ampio spettro di possibilità se vengono, insomma, a trovarci anche prima dell'orario delle proiezioni, ovviamente, e poi ovviamente dopo le proiezioni è previsto comunque il concerto di chiusura. Oh, tu segui anche altri eventi culturali, dai tramonti nell'Uliveto ai concerti al buio, ci parli anche un po' di questi eventi? Sì, dunque, lo spazio dei tramonti è nato, diciamo, proprio per aspettare le proiezioni e ogni giorno alle 19:15 l'appuntamento, diciamo, è allo spazio cinema per raggiungere poi tutti insieme l'Uliveto, dove avremo sia delle presentazioni di libri che musica. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo accolto la proposta di Andrea Rocchi, che è un musicista romagnolo ma trapiantato, diciamo, in Grosseto, che ci ha proposto questa nuova iniziativa che si chiama Volumi Festival e che unisce musica e libri. Per cui, insomma, ogni sera avremo, per tre sere avremo l'appuntamento con Volumi Festival e la prima sera avremo invece la presentazione di un libro, ma anche questo con poesie che sono state poi musicate da Newt, da Claudio Domestico, perché avremo L'Orso Innamorato, che è la proposta appunto di Sollo e Newt. Poi il 17 agosto invece parleremo di cinema attraverso le canzoni del cinema con Giovanni Bogani. Questo in linea di massima gli appuntamenti dell'Uliveto, mentre il concerto al buio non lo posso dire perché è al buio. No, nel senso, il concerto al buio di solito avviene dopo il concerto del palco centrale, sempre nell'Uliveto, però la sua caratteristica è che è al buio non solo perché non c'è la luce, ma è al buio perché lo spettatore che arriva nell'Uliveto dopo, insomma, che arriva nell'Uliveto per il concerto al buio non sa chi si esibirà. Però una cosa la possiamo dire: quanti ce ne saranno di concerti al buio? Ah, ce n'è uno il 14 okay. agosto. Ok. Il 14 agosto, dopo il concerto di Daniele Silvestri, che quest'anno sarà accompagnato prima da Diodato e Mirko il Cane. Dopo il concerto, diciamo, del Palco Centrale, tutti nell'Uliveto per il concerto al buio. Mi piace aggiungere, Simo, che ci saranno anche dei brevi momenti per ricordare Mattia Torre che è scomparso di recente. Sì, esatto, questa è una cosa di cui abbiamo parlato proprio con te nei giorni in cui Mattia è scomparso, perché comunque c'era un legame sottile ma molto forte che legava in qualche modo l'attività di clorofilla a lui e anche la tua attività con la radio. Quindi nasce da lì, nasce dal fatto che io avevo conosciuto Mattia ai tempi di Giovano Mucche, quindi il suo primo film. Poi negli anni la sua presenza, insomma, c'era sempre stata in qualche modo, perché avevamo ospitato comunque Valerio Aprea con un suo scritto, Gola, poi avevamo parlato della serie TV Boris proprio con lui nel 2010. Insomma, lo scorso anno lo avevo risentito in occasione di Perfetta, lo spettacolo che aveva scritto per Jerzy Cucciari, doveva anche tra l'altro venire a presentare il libro, però poi non stava bene, il libro della linea verticale, Sì. poi però non stava bene, quindi questa cosa non è stata, diciamo, più possibile. E quindi ci piace ricordarlo in modo molto discreto, perché comunque per noi è stato un po' un faro, come dico io ogni Sì, tanto. sì, sì, sì. E allora ricordiamo la 18ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente a Rispescia, provincia di Grosseto, dal 14 al 18 agosto 2019, anche se il festival è cominciato a maggio e proseguirà fino a novembre in un totale di 11 spazi con più di 50 proiezioni tra documentari, film e cortometraggi a tematica sociale e ambientale. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Simo, un abbraccio, in Grazie bocca al lupo, ci vediamo lì. a voi. Vi lascio solo il riferimento del sito, così per chi Certo. vuole può trovare tutte le informazioni lì, www.festambiente.it. Ciao a tutti. Con Tino Franco dell'Associazione Culturale Nel Blu Studios per parlare dell'omaggio a Ugo Gregoretti a Roma al Palazzo Merulana, mercoledì 31 luglio 2019. Tino, ben trovato. Ciao Federico, la triste occasione, insomma, è un periodo un po' brutto, però il modo migliore è comunque sempre quello di tenere vive i ricordi. Io riflettevo, ho conosciuto Gregoretti, per il quale appunto facciamo questo omaggio mercoledì 31 luglio a Palazzo Merulana, che è questo spazio che esiste da un anno, gestito da Coop Culture, uno spazio privato che però si è molto aperto verso la città, verso le associazioni. Hanno fatto in un anno una quantità enorme di incontri, eventi, nel nostro caso, nel caso di chi ama il cinema, proiezioni, è stato appena fatto fuori norma, no? La proposta di Aliana Tra. Insomma, è un luogo importante perché poi, come al solito, vabbè, il solito discorso, noi siamo sempre a caccia di nuovi posti dove poter condividere le cose che ci piacciono, che ci turbano, le cose delle quali vogliamo un po' parlare. In questo caso era già stato programmato un piccolo festival voluto da noi e da Andrea Valeri, che appunto cercava di intercettare quelli che sono dei film, anche delle ultimissime stagioni, che magari hanno avuto una presenza importante in festival tipo Cannes, tipo Venezia, eccetera, e che però per il solito collo di bottiglia della distribuzione che non riesce a supportare le produzioni italiane, i lavori un po' più di ricerca, allora noi, come abbiamo fatto nel passato con l'ANAC, l'Associazione Nazionale dei Cinematografici, con la quale abbiamo organizzato il percorso di questi film all'interno delle biblioteche di Roma e del Lazio, l'idea è quella di proporre appunto film invisibili, di solito invisibili, cioè che hanno avuto magari 2 settimane, 1 settimana di programmazione al cinema, e riproporli per il pubblico che li può condividere, non li fruisce solamente attraverso il web, attraverso le TV, insomma, cercare di fare quello che una volta era il vecchio Cineclub, il Cinefondo, anche magari portando l'autore e l'attore per parlare. L'occasione era appunto che la prima di queste serate, che si svolgono appunto a Palazzo Milano, è un omaggio a Ugo, e che non è un omaggio così posticcio, perché io avevo una frequentazione, una collaborazione negli ultimi anni, eravamo legati e lui mi chiese di aiutarlo, lui ormai è ottantenne, però voleva fare il suo ultimo film autobiografico, e quindi andammo avanti per discorsi di ricerche estetiche, perché poi tra l'altro la follia è che volevamo farlo tutto con la tecnica del chroma key, che è una tecnica anche quella che Ugo Gregoretti ha esplorato tanto negli anni 70, quando c'era la forza delle produzioni Rai che potevano impiantare trasmissioni sceneggiate tipo Le Uova Fatali, che era uno sceneggiato di fantascienza tutto girato con la tecnica del croma a metà degli anni 70. Insomma, è stato uno sperimentatore Ugo, non devo stare io a parlarne, e ne parleremo un po' tutti quanti quella sera, nel senso che la cosa non è verticale. Ho invitato i familiari e gli amici e tutti quanti ne parleremo un po' a mo' di celebrazione, insomma. E quindi, insomma, programmiamo delle cose che non si sono viste, perché uno appunto è questo provino che facemmo per la Rai, per il IBA, per ottenere dei finanziamenti. Noi come Blu Studios, insieme con la Cap Film, producemmo un promo di 11 minuti dove c'è Ugo che recita, diciamo noi che recitiamo tutti quanti, insomma una cosa un po' strana, molto gregorettata, assolutamente lo difendiamo come aggettivo, perché... E poi io proietto un'intervista super inedita, si è vista forse in un festival, sull'ultimo lavoro di narrazione che ha fatto Ugo, che è tratto dal film Scossa, e che il titolo insomma abbastanza esemplare, perché è Lungo le rive della morte, è un cortometraggio che fa parte appunto del film Scossa e che racconta il disastro e la diaspora del terremoto di Messina nel 1908. E anche lì Ugo, geniale, questa cosa la fa prima di tutto tutta su croma, anche perché era un po' difficile fare un film così da zero, no? Il disastro di quello che successe su Messina e Reggio Calabria all'inizio del secolo, ma soprattutto era l'occasione poi per parlare un po' di un suo punto di vista. Se riuscite a venire godrete di queste perle, diciamo che Ugo tirava fuori così, senza tanto bene. E poi proiettiamo il corto, che è appunto Lungo le rive della morte, che è divertente perché è tratto da un servizio giornalistico di questo poeta romanziere che si chiamava Giovanni Scena, che fu inviato da una rivista a fare questo reportage, e Ugo lo interpreta come un reportage, cioè mette in scena un servizio televisivo, una sorta di diretta, un servizio giornalistico d'attualità nel 1908, un telegiornale del 1908, quindi questo è sempre, vabbè, Ugo che sapeva spostare i piani temporali, che faceva queste cose, e a lui riuscivano molto bene, divertente. Questa è, diciamo, la serata di mercoledì. Dopodiché attacchiamo dal giorno dopo con la programmazione appunto del film un po' invisibile, che comprende sia documentari che film di finzione, tra i quali ci sono dei titoli in un ambito nostro, diciamo, da passare, sono abbastanza visti, però a parte magari qualcosa può essere sfuggito, ci sono anche dei film veramente, penso, insomma, poco visti, tipo L'eroe di Cristiano Mini, oppure Blue Kids, che è il film di Andrea Ferri, e insieme a La notte piccola per noi di Gianfrancesco Lazzotti. Però insomma con questi poi c'è Sisi Ando a Storica, Ando a Cannes, c'è naturalmente uno dei più bei film di quest'anno, che è La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio Di Innocenzo, c'è Ricordi di Valerio Mieli, e poi i documentari di Malabate, di Ci Saigo, che per chi non l'ha visto è un bigliellino, secondo me, così come L'uomo che non cambia la storia di Rito Caria e il film di Felice Farina, Conversazioni atomiche. Poi c'è anche il film di Roberto Livito, che è un film ormai un po' vecchio, ma vale la pena rivedere o vedere per la prima volta, così come anche Saremo giovani e bellissimi, che è il film che ha avuto quella polemica recente sulla proiezione di Indie Band. Noi le proiezioni, in questo caso non per l'omaggio di Ugo, le facciamo a pagamento, perché ripeto, la proposta di Palazzo Neurana è una proposta culturale, tutto quanto, ma deve avere anche una sostenibilità. E su questo diciamo che la gestione di questa cosa non riceve finanziamenti pubblici, quindi cerchiamo se non altro di mantenere in piedi la balanza, insomma, che mi sembra il minimo. Però ecco, l'occasione anche carina è quella di offrire un calice di vino e qualche tartina, insomma, a chi viene, quindi è anche un modo, insomma, per fare quella convivialità e quella condivisione che tutti quanti auspichiamo, cioè non venire a vedere il film, andarcene, insomma, sì. Cercare di fare in modo di fare un po' comunità, un po' dell'idea di questa cosa. Fino in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperlo. Se no, i riferimenti web sono sicuramente andare a www.palazzomeruana.it e cercare Cinema di Stelle, seconda edizione, perché Cinema di Stelle è, diciamo, quello che noi avevamo già fatto l'anno scorso e che continuiamo a fare, e speriamo di poter continuare a fare anche nel futuro, perché mi sembra un'ottima iniziativa. Non ci siamo solo noi, ma c'è Fuori Norma, c'è del cinema norvegese, insomma ci sono esperienze altrettanto, se non più valide della nostra. La cosa comincerà intorno alle 7:30, c'è anche la possibilità di visitare il museo, insomma sono 90 opere dell'arte moderna importanti, ci sono dei capogrossi, dei Chirico, insomma vale la pena per chi non c'è mai stato di andarci, c'è appunto, ripeto, l'offerta anche di un calice di vino e c'è sicuramente una maniera carina nel periodo estivo, perché la cosa comincia il 31 e finisce prima di Ferragosto, il 12 agosto. Ricordiamo l'omaggio a Ugo Gregoretti e la rassegna Cinema dell'Invisibile a Roma, a Palazzo Merulana, dal 31 luglio al 12 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento a Tino Franco dell'Associazione Culturale Nel Blu Studios. Tino, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo e vi aspetto tutti il 31. Con Fabio Mancini di Doc 3 per presentare la stagione estiva di Doc 3, Cinema del Reale, dall'11 luglio al 4 ottobre 2019 su Rai 3. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, grazie di avermi chiamato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Raccontaci un po' di questa stagione estiva. Questa stagione che stiamo preparando, intanto partiamo, come hai detto tu, più tardi per arrivare un po' più avanti nel palinsesto pre-autunnale, quindi copriamo l'estate e ci allunghiamo fino all'inizio di ottobre. Questo è, insomma, una cosa che ci fa molto piacere. Quest'anno abbiamo uno slot molto interessante, spero. Insomma, abbiamo cercato di alcune cose che avevamo visto negli anni precedenti, che avevamo trovato tra Beach e Festival, si sono concretizzati e quindi sono diventati documentari. Molti italiani che raccontano l'estero, e quindi questa è una cosa che ci piace molto. Una produzione proprio di Rai 3 e anche due titoli di Rai Cinema, quindi insomma diciamo che abbiamo mischiato un po' tutte le carte. Nel complesso quanti titoli e qual è il giorno settimanale di programmazione? Allora, giovedì in seconda serata, in classico, sono 13 titoli, andremo in onda per 13 giovedì. Ci hai fatto un po' una panoramica, volevo chiederti un po' nel complesso quali sono stati i criteri di scelta. Guarda, i criteri di scelta abbiamo cercato di portare avanti un po' una linea che l'anno scorso era stata premiata, che ci era molto piaciuta, insomma, e penso piaciuta anche agli spettatori. Qualcosa, una formula che fosse un po' diversa, che mantenesse il rigore del documentario narrativo, ma si aprisse anche a un'idea di reportage che potesse darci uno spettro ancora più ampio, quindi mettendo in gioco sì personaggi forti, ma anche molta vita, molte dinamiche, molte intersezioni di quello che raccontiamo. E ci sembra anche quest'anno di essere riusciti a mediare tra tutte queste varie prospettive che ci piacevano molto. Tra i 13 lavori, quali sono le tematiche più forti, magari più battute?